Buongiorno a tutti, allora sabato 6 marzo 2021, non pensavamo di arrivare a questo punto della pandemia, siamo però in pre-zona rossa, in una bella giornata di sole, leggero vento, per una manifestazione importante, un ponte di corpi, diciamo, siamo qui nella solidarietà, una manifestazione extranazionale. Che oggi vede coinvolte diverse città e ritenevamo opportuno sia raccontare il significato della giornata di oggi sia essere qui, cioè manifestare anche con i nostri corpi la solidarietà a quello che sta accadendo sulla rotta balcanica e non solo nell'ultimo anno e nell'ultimo periodo. E io sono Giulia Scalona di Radio Antenna Migrante, con me c'è a fianco Antonio Nigro e Bianca Luna, Bifulco. Che sono gli organizzatori, insomma, che due rappresentanti dei tanti organizzatori di questa giornata, di questa manifestazione, che potete immaginare anche per il grado di complessità, con tutte le norme, le accortezze che ci sono ha richiesto, quindi grazie innanzitutto anche per lo sforzo che avete dato per darci questa opportunità di manifestare oggi. Antonio, parto da te e poi chiudo con Bianca Luna, perché dalle vostre voci vorrei chiedervi di descrivere quello che sta accadendo. Di sottofondo stiamo sentendo anche le voci di altre città collegate, sembra di stare in una piazza molto più grande dei confini naturali che potrebbero esserci. Antonio, come mai siamo qua oggi? Ecco, cosa sta accadendo? Innanzitutto grazie a Giulio per la sua presenza. E cosa sta succedendo? Da un po' di anni a questa parte sta succedendo che le frontiere, le cosiddette frontiere, vengono in pratica esternalizzate da parte dell'Europa, quindi c'è questo disegno preciso dell'Europa di fermare i migranti che cercano di raggiungere appunto l'Europa. Attualmente il focus si è spostato sulla rotta balcanica, ma questo non toglie che situazioni simili ci sono in Grecia, in Turchia, in Libano, conosciamo benissimo le situazioni delle isole greche che piano piano stanno cercando di svuotare, brutto questo termine, però insomma, piano piano sembra che si sono aperti dei corridoi umanitari, che sono comunque molto lenti, anzi lentissimi. Io ho avuto notizia da pochi giorni che sono arrivate in Italia una trentina di persone soltanto. Attualmente la rotta balcanica ospita in totale credo 8.000 persone, quindi soprattutto concentrate in Bosnia, che è uno degli ultimi paesi che viene attraversato appunto per arrivare in Europa. Il punto più difficile, dove si sono anche recati, avete sicuramente visto la missione dei parlamentari europei, è quello della Croazia. Cosa succede su questa frontiera? Quello che siamo riusciti a documentare da attivisti che sono comunque presenti sul posto a loro rischio e pericolo, perché è una situazione molto pericolosa, succede che queste persone non soltanto vengono respinte, ma vengono brutalmente attaccate e quindi malmenate. Abbiamo testimonianza di questo con foto, video che documentano appunto questi pestaggi. Oggi siamo qui per condannare tutto questo e cerchiamo di far sentire, scusami Antonio, la nostra voce. Noi prima di quando stavamo sistemando l'apparecchiatura tecnica, noi ci siamo incontrati in radio, ne abbiamo già parlato con te anche di quello, come dici tu, di quello che accade in altre frontiere dell'Europa, sì, nell'occasione di altre manifestazioni di sensibilizzazione a Lesbo, la scintilla è stata di nuovo la criminalizzazione di un atto naturale di solidarietà di due persone a Trieste. Sì, questa manifestazione in realtà nasce prima di questo evento. Cosa è successo? A Trieste è presente un'associazione che si chiama Linea d'Ombra, che da anni, già da diversi anni, accoglie i migranti che dalla Slovenia giungono in questa piazza di Trieste. E c'è proprio questo gesto bellissimo della cura, perché questi ragazzi arrivano completamente distrutti dalle fatiche del viaggio e vengono quindi curati soprattutto i piedi. Quindi poi cosa succede? Succede che la settimana scorsa viene appunto criminalizzata questa associazione che subisce una perquisizione. Stiamo parlando di un professore di filosofia che si chiama Gian Andrea, che ha 83 anni, e sua moglie, che è una dottoressa, che ne ha 67, credo. Sono stati appunto indagati di favoreggiamento per l'immigrazione clandestina in seguito a un episodio successo nel 2018, in cui loro avevano ospitato questa famiglia di rifugiati curdo-iracheni nella propria casa. L'accusa è grave, perché uno dei reati che viene contestato è che Gian Andrea ha in pratica ricevuto questi soldi su una Western Union. Conosciamo benissimo la situazione dei migranti che non hanno documenti e quindi non possono ricevere dei soldi dai parenti che sono già in Europa. Quindi questi soldi sono stati bonificati sul conto di Gian Andrea, e lì nasce questa indagine, che poi in realtà finirà in un nulla, perché appunto Gian Andrea ha soltanto girato questi soldi a questa povera famiglia. Al di là degli aspetti giuridici, speriamo appunto che sia tutto rappresentato nella chiarezza che ha. Questi episodi inquinano molto il dibattito sulla solidarietà. Ricordo un po' quello che è successo con l'infelice ma diffusa espressione dei taxi del mare. Certo. E quindi manifestiamo oltre che l'appoggio a questa politica di frontiere, che è assurdo, disumano, con i documenti che sono ormai tantissimi, ma basta spostarsi, qui siamo a Pessimo, basta spostarsi di pochi chilometri verso nord o verso sud nella piana del Sele o più giù, per sentire racconti di persone che noi abbiamo incontrato e che raccontano di quello che è l'esperienza della famosa rotta balcanica, o di quello che accade dall'Europa passando dalla Turchia, come chi un mese fa circa è sbarcato a Salerno uscendo da un container di una nave mercantile. Sì. Quindi ci sono ormai anche chi è sul territorio e incontra queste persone, ne sente la viva voce e ne ha testimonianza nei loro occhi di quello che è il problema. E Biancaluna, la manifestazione di oggi, vengo a te, ti volevo chiederti, nella descrizione anche che è stata utilizzata dell'evento si fa un forte riferimento anche alla chiave, l'organizzazione femminile delle donne che la manifestazione ha. Non ho iniziato con te perché vorrei appunto saperne, lasciarti dello spazio. Questa manifestazione nasce proprio dall'Ovena Fornasiv e quindi dal suo prestare cure materiali, pratiche, cioè non cure soltanto, uso questa espressione, ideologica, perché Lorena cosa fa? Aspetta queste persone che arrivano, va sul posto, aspetta queste persone che arrivano in piazza a Trieste, in piazza Mondo a Trieste, li cura, cioè letteralmente cura le loro ferite, sia attraverso l'applicazione di bende ai loro piedi che sono maltrattati, laceri, ma soprattutto ascolta le loro storie. E questo secondo me è l'aspetto più importante, perché ascoltare la narrazione delle vicende che hanno condotto uomini, donne e bambini a lasciare le loro terre in fuga da guerre è il primo gesto, il primo atto per dare dignità e per restituire l'umanità che viene loro negata attraverso una burocrazia che è l'inferno. Perché io voglio ricordare che tutte le dittature peggiori e tutti i regimi e tutte le forme di nazismo nascono proprio dalla visione burocratica della società. Sei un numero, quel numero ce l'hai, te lo diamo o non te lo diamo, è da questo che bisogna fuggire. Quindi le donne che hanno insito, proprio perché siamo portatrici di vita, ma credo che sia un discorso molto più ampio dalla semplice concezione, dalla naturale concezione della maternità, e hanno proprio questo ruolo nelle società e in questo momento storico ancora di più, per due ordini di ragioni. Uno, perché siamo, come dire, in questa società neglette, nel senso che pochissime forme di rappresentanza, e le ultime vicende politiche ce lo dimostrano, ma dobbiamo cominciare a riapproparci del nostro ambito politico, perché la femminilità, essere donne, è anche e soprattutto, secondo me, un atto politico. Essere politico, immagino tu intenda quello nel senso più nobile della parola, da polis. Certo, polis, per fortuna, okay, siamo, ma la politica in è un luogo questo. Che ci ispira. La politica è questo, le degenerazioni attuali sono, come dire, sono un segmento, la politica è questo, attraverso la politica che si diventa cittadini, e senza il diritto di cittadinanza noi non siamo nulla. Ci ricordiamo che questa parola cittadino o cittadina viene da lunghe lotte che hanno causato morti, che hanno provocato guerre, quindi teniamocela molto stretta questa parola cittadino, e teniamoci pure stretta la parola politica, per tentare davvero un cambiamento della società. Tu, rispetto al cambio che c'è stato di governo, speravi in qualche segnale diverso di discontinuità? No, dico la verità, cioè non speravo, cioè non avevo la speranza, perché io credo che la situazione politica viene determinata dal livello di attivismo e di partecipazione dei cittadini. Noi non possiamo dare una delega in bianco ai nostri rappresentanti, la cosa più triste che può fare un cittadino, quello di esprimere questo valore immenso che è la cittadinanza attraverso il diritto di voto, nella cabina elettorale e poi ciao. Se non ritorniamo di nuovo ad essere partecipi della vita politica, come la Costituzione esige, perché il diritto di cittadinanza è un diritto ma è anche un dovere che ci impone degli obblighi, e tra questi, secondo me, se guardiamo la Costituzione nel suo complesso, l'obbligo più grande è proprio la solidarietà, ed è l'articolo 3 che secondo me è l'articolo guida del nostro paese e della nostra Costituzione. Quindi se cominciamo di nuovo a fare politica in prima persona, a metterci la faccia, o come dice ancora di più Lorena, a metterci il corpo, forse questo paese potrà cambiare e potrà esprimere nelle sue diverse valenze, destra, sinistra, centro, persone migliori, perché a me spiace dirlo, ma i rappresentanti al governo sono la nostra espressione, ed è in questo declino culturale, che è culturale prima di essere ideologico, che l'Italia sta naspando e sta muovendo. Qua penso che vi cercano, perché adesso parte il collegamento con la piazza qui di Paestum. C'è intanto ci hanno abbandonato sia Antonio che Biancaluna, che ringraziamo ancora, si sono raggruppati vicino a un monitor con delle casse qui sulla strada principale che taglia l'area archeologica di Paestum davanti al museo. E c'è un nutrito gruppo di persone che, io dico, almeno dal mio punto di vista, anche forze dell'ordine, forse più la cosa che ci ha stupito di più arrivando qui, è una manifestazione assolutamente tranquilla, figuratevi, e tutti con mascherine, distanziamento, alcol, igienizzanti sulle postazioni, ovunque sia possibile. E quindi si sono allontanati nel gruppo organizzativo, perché tramite Zoom verrà fatta una diretta qui dalla piazza, e e ci sarà un piccolo intervento, un discorso di solidarietà anche da questa piazza. Antonio ci diceva che partecipano piazze da tutta Europa, ha partecipato da un mese ormai in questa organizzazione folle, in gruppi, in riunioni Zoom anche di 6 ore con 150 partecipanti, quindi davvero un'impresa enorme. Antonio noi l'abbiamo conosciuto come attivista e voce rappresentante qui del territorio per diverse iniziative, azioni di solidarietà non legata a nessuna sigla specifica, e tramite lui anche sulla rete, su Facebook, su altri canali c'è un aggiornamento puntuale. Quindi noi a questo punto vi rimandiamo a due cose. Se state ascoltando in diretta, quella di andare sulla pagina Facebook di Un Ponte di Corpi, da lì si può seguire la diretta e si possono vedere tutti gli altri materiali che sono stati caricati. Qualche giorno fa sono arrivati video di solidarietà da parte di Mimmo Lucano, da parte di padre Alex Zanotelli, quindi diciamo che c'è stata una, forse si sentiva, ecco, un sentire comune da più parti d'Italia, quella di manifestare con la presenza e non solo online il dissenso. Sono quello che accade nelle frontiere tra Bosnia e Slovenia, in Croazia, a queste persone che stanno dormendo nella neve, donne, bambini, uomini in condizioni atroci, sono anni che si sta raccontando, forse adesso è il momento anche per chiedere a gran voce un mai più, una risoluzione, un intervento. Il fatto che siano andati lì degli europarlamentari non è un segnale da poco, sono andate lì persone del calibro di del dottore Pietro Bartolo, che è stato anche il medico che a Lampedusa ci ha raccontato le atrocità di quello che accade nel mare. Credo che in tanti, a prescindere dal colore politico, ma semplicemente dal punto di vista umano, sentano la necessità di voler raccontare una solidarietà che è fatta in un altro modo, ecco, un altro modo di intendere le relazioni tra chi arriva da paesi diversi e lo fa affrontando viaggi molto difficili. Ci sono dei cartelli informativi, ecco, stanno incominciando, quindi noi mi zittisco per lasciare a loro la parola e la diretta, e alla prossima. Ringrazio Tony che pazientemente ha tenuto l'asta boom per tutta la diretta, ha seguito la parte tecnica, e buona giornata a tutti, buona zona rossa a tutti. E per tutta la vita ricamato serve di Zaire, scampoli di cotone, solo per permettere a mio padre di sappiarsi fermato. Per le mie sorelle gelate dalle mani e per i miei fratelli, che al posto dei libri, senza averne l'intenzione, hanno inventato.